America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Al Pacino, il grande attore americano che dice Paul non avrebbe mai immaginato che questa sua idea di aiutare dei bambini malati con gravi malattie, con gravi menomazioni, handicap, si sarebbe trasformata in un'iniziativa non soltanto americana ma globale, con delle succursali in vari paesi del mondo, inclusa l'Italia. Paul, il Paul di cui ci parla Al Pacino, e Paul Newman, il leggendario attore che a un certo punto si inventa questa iniziativa per aiutare dei bambini davvero in serie gravi difficoltà. Ha creato dei camp, questi camp si chiamano Serious Fun, serious perché la malattia è seria, però ci si può anche divertire con una malattia seria ed è questo l'obiettivo. E come l'ha finanziata questa iniziativa? Inventandosi dei prodotti alimentari, delle salse, dei prodotti gastronomici che vengono venduti nei supermercati. È uno degli esempi di come la filantropia in America è straordinariamente molto più avanti di quanto non lo sia da noi. Pensate, l'88% delle famiglie americane fa donazioni filantropiche di qualche genere. Mediamente nel corso di un anno una famiglia dona $2,213. Complessivamente le donazioni, l'ultimo dato risale al 2012, $298,3 miliardi, il 73% donazioni private, 14% da fondazioni, 8% da lasciti e 5% dalle aziende. Stiamo parlando del 2% del prodotto interno lordo. Dove vanno a finire queste donazioni? 32% in religione, 13% in pubblica istruzione, 12% in servizi umanitari, 9% in fondazioni. E ci sono in America un milione di organizzazioni non profit. Pensate che il 9,2% di tutti i salari, stipendi pagati negli Stati Uniti provengono da organizzazioni non profit. Ecco, vi racconto questa storia e parto dall'evento dell'altra sera, un paio di giorni fa, al Cipriani, sulla 42esima, proprio davanti a Grand Central Station, dove il Serious Fun Event ha invitato 500-600 persone a una grande cena con spettacolo, con gala, con intrattenimento, con un unico obiettivo, quello appunto di raccogliere dei soldi. La raccolta complessiva legata a questa serata è stata di $2 milioni. Intrattenimento di chi? Anche dei ragazzi che sono stati nei camp. Sentite questa ragazza che intrattiene il pubblico con una meravigliosa canzone, ma soprattutto con una voce straordinaria. Ecco, avete sentito che straordinaria interpretazione, ma sentiamo cos'altro succede nella serata. Ecco, avete sentito uno degli intervalli in cui viene una battitrice d'asta che invita la gente a fare della donazione. In questo caso dice alzate la mano tutti quelli che vogliono regalare $2,500, alzino la mano. Dobbiamo raccogliere almeno $100,000 questa sera, perché c'è una persona che ha detto che se raccogliamo $100,000 lui farà una donazione di altri $100,000. Quindi vi invito a procedere con queste donazioni. Fatele. Ecco, nel contesto di questa asta che succede? Che a un certo punto parte un'asta con dei vari premi che sono stati donati da personaggi, per esempio un quadro, per esempio una crociera e per esempio una villa in Puglia. Questa villa in Puglia molto bella, con piscina, con prato, una villa sul mare, ma insomma comunque una villa, non un palazzo reale, è stata messa in palio, pensate, da un finanziere italiano. Perché? Perché il Serious Fun Camp è presente anche in Italia con la Dynamo Camp in Toscana, dove vanno una gran quantità di bambini europei. Dunque c'era in questa serata anche un cotè italiano. Chi è che ha messo in palio questa villa? Il finanziere Guido Roberto Vitale. Che succede? Parte l'asta e alla fine si scatena una battaglia, e questo ci dimostra quanto poi il nostro paese resti una meta straordinariamente interessante dal punto di vista turistico per gli americani. Dunque immaginiamo che potenziale potremmo avere se davvero sfruttassimo il turismo come dovremmo. Insomma, alla fine questa casa è stata battuta per sei giorni durante l'estate, a $45,000 che sono entrate nelle casse dell'iniziativa filantropica grazie appunto a questa doppia donazione: una persona che mette a disposizione la sua villa, un'altra persona che compra il diritto di starci per sei giorni. Ecco, perché c'è questa straordinaria voglia di give back, di restituire? Perché? Perché si percepisce in modo diretto come queste donazioni vanno davvero a fare del bene. Sentite, per esempio, questa ragazzina che avrà 10-11 anni, si chiama Melanie, senza una gamba, racconta come a un certo punto in uno di questi camp la mettono sugli sci, le danno uno sci, perché ovviamente ha soltanto una gamba, e la buttano giù da una collina. E lei dice: a un certo punto è successo qualcosa di incredibile scendendo dalla collina. Ho avuto la sensazione di non avere limiti, di non avere confini. Ecco, sentiamo un'altra ragazzina, Giulia, anche lei senza una gamba, racconta la sua esperienza, una ragazzina di 14 anni, di quando le hanno detto che aveva il cancro. Cosa racconta? La prima volta che ha saputo di avere il cancro. Hai il cancro, dice. Sono solo tre parole che determinano il tuo futuro. Tre parole che ti fanno vedere per la prima volta tuo padre piangere, tre parole che ti possono far perdere la vita. Dopodiché si è lanciata in una danza straordinaria che ha potuto eseguire grazie alla sua protesi donata appunto dalla missione filantropica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Li troverete su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, cominciamo da una notizia. David Letterman, che ha una gran quantità di ospiti musicali nel suo show notturno, ha annunciato nello spettacolo di ieri notte che con il 2015 si ritirerà. Beh, devo dire, è stato un annuncio emozionante, commovente, un annuncio sicuramente storico per la storia della televisione americana. E visto che parliamo di personaggi storici, e beh, la canzone del giorno la voglio dedicare a un cantante che sempre nella serata di cui vi ho raccontato ha cantato live emozionando il pubblico. Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco. To my city by the bay I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be cable cars climb halfway to the stars. The morning fire. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.